Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini. Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24, ben ritrovati per questa puntata di si può fare con poco. Questo è il tema che abbiamo scelto per la giornata di oggi. Ovviamente non è un inno alla povertà, non vi chiediamo di fare con poco, con quattro stracci, no, vi chiediamo come possiamo fare in semplicità, uno sprone vogliamo essere, a concentrarci su ciò che abbiamo più su quello che non abbiamo, no? A volte come nelle diete dimagranti, si dice sempre pensa a quello che puoi mangiare, non pensare a quello che ti togli adesso, pensa a quello che puoi mangiare, come lo puoi mangiare, come lo puoi cucinare, che ricette meravigliose possono venire fuori dagli ingredienti che hai in semplicità. Le cose così più alte ci arriviamo pian pianino, un pezzo alla volta, un desiderio alla volta. Tagliamo un po' le complessità, teniamo il meglio, teniamo la parte semplice. Bene, questo è quello che è il tema della nostra giornata. Ovviamente siete liberi di intervenire come volete all'800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Allora, che cos'è che possiamo fare con poco? Che cos'è che magari avendo poco riusciamo a fare? Magari c'è stato qualcosa nella nostra vita che ha cambiato, no? Prima avevamo un lavoro, poi non c'era più e abbiamo dovuto fare con poco. Un po' quello che è successo alla nostra prima ospite, che davvero prima aveva una vita e poi ne ha avuta un'altra e poi aveva una vita familiare molto particolare che forse l'aveva abituata anche a fare un po' con poco, a fare con quello che c'era in casa. La nostra prima ospite è Mary Sarnataro, buongiorno. Buongiorno. Scusate la voce da caverna. No, vabbè, ti sei assolutamente giustificata perché ti abbiamo costretto a svegliarti un po' prestino questo sabato, magari avevi di meglio da fare stamattina. Ma ti dirò la verità, io mi alzo tutte le mattine presto perché ho le galline. Davvero? Cioè, giuro. Una delle inviate più famose delle Iene, una comica cabarettista, la mattina si alza per dar da mangiare alle galline. E certo, a tutte le mie galline e all'oca quando c'era l'oca. Adesso purtroppo non c'è più, però la mia priorità erano loro. Ma guarda un po', davvero. E quindi in semplicità, perché insomma alzarsi la mattina per dar da mangiare alle galline sicuramente è un inizio di giornata molto pratico e anche semplice. Sì, no, io più che altro dico, si parte dal basso, la giornata non può che migliorare, no? Quindi vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Il mio discorso, esatto. Il bicchiere mezzo pieno. Senti, due cose, no? Ho visto nella tua biografia nel tuo passato, questo lavoro che prima c'era, poi a un certo punto ti sei trovata disoccupata e hai preso tutt'altra via che ti ha portato dove sei adesso. Dall'altra parte la tua numerosissima famiglia con tutti questi fratelli, 8 maschi. Alla periferia, in una periferia, insomma, vi davate un bel po' da fare, immagino, anche per fare con quello che c'era. Esatto, io ce l'ho tutte quelle della sfigata, però se ci peccato. Ma no, io non le chiamerei però della sfiga. Dai, no, raccontaci. No, ma anzi, cioè, ti dico la verità, secondo me sono state anche un po' la mia fortuna tutti questi elementi. E sì, allora io lavoravo ai Viaggi del Ventaglio in una posizione tra l'altro anche buona perché ero product manager, quindi abbastanza elevata tra virgolette come posizione. Viaggi del Ventaglio fallisce, che è appunto un tour operator, e adesso che cosa faccio? Mi sono ritrovata a fare salamella in fiera. Beh, dai, un bel salto, direi, un bel salto dai viaggi magari alle Maldive alle salamelle in fiera, no? Esatto, sì, un bel salto sia a livello di tipologia di lavoro sia a livello economico, anche se ti dico la verità, a me fare le salamelle in fiera e lavorare come cameriere è servito tantissimo, ha fatto tanto, perché parte fatto con lavoro dignitosissimo e comunque mi ha dato da mangiare per tutti quei mesi che, cioè per tutti quegli anni in cui non potevo ancora permettermelo, e poi ti fa capire tante cose della vita, no? Anche allora, magari tanti spunti della vita, cioè perché sei in contesti sempre diversi, persone sempre diverse, ti possono dare un sacco di idee o comunque di possibilità di riflettere, no, sulla tua situazione, sì, e quello poi, che potresti fare. Bravissima, e poi c'è proprio il contatto diretto col cliente, no? E quindi diventi un po' amica, un po' confidente, la gente torna per te, non per la salamella. E questa cosa qua ti dà, cioè, essere importante anche per uno sconosciuto, ma solo perché gli hai messo più cipolla di quella che ci andava, è una cosa fighissima, no? Io mi sentivo felice. Io senti, devo dire, chi fa il lavoro del cameriere, come dire, ne ho una grande stima per la pazienza che deve avere a volte con i clienti. Mamma mia! Vedo persone che pretendono, magari, cioè, o comunque hanno un modo di porsi che è davvero indisponente. Già resistere è una grande qualità. Soddisfarli poi, che ti ricordino di te con piacere, non plus ultra. Sì, guarda, io ci ho fatto metà spettacolo sulla cameriera, perché in quel periodo appunto di transizione da Viaggi del Ventaglio a poi quello che è successo, Cabaret e Iene, via dicendo, ho fatto appunto Salamella e cameriera, e la cameriera la facevano a Milano fino alla Cattolica, l'Università Cattolica, e mi capitavano gli elementi veramente, ma le ragazze che mi dicevano se potevo fargli una piadina cotta e fontina senza piadina. Come senza piadina? Cioè volevano cotta la fontina? Magari dire le cose dritte una volta, di vorrei del prosciutto, no, e del formaggio. Esatto, ma se io lo dicevi, scusa, vuoi del prosciutto e formaggio? No! Anche stizzite, no? Una volta, ti giuro, una mi ha fatto tanto ridere, mi ha detto, scusa, ma la frittata qua la fate con le uova? Che lei come la faceva? Chissà. Ho detto, guarda, siamo tradizionalisti, sì. Ah, giusto. No, perché sai, io non mangio niente che esce dal sedere della gallina. Cioè, e ho detto, guarda, ti facciamo il cesario, così almeno sei più contenta, non lo so. Ma ti hanno mai detto così? Che, cioè, quella sosteneva di avere mangiato la frittata comunque in vita sua? Ma credo di sì. Vabbè, senti, vorrei dirti che c'è un ascoltatore che ci scrive che anche essere single comporta una vita semplice. Io ora, una che mi fa il filo, ho un po' paura di perdere questa sua tranquillità, questa sua semplicità. Vedi che la semplicità è nei luoghi più strani, neanche nell'essere single si è semplici. Ma guarda, allora, caro ascoltatore, che sei single, si può vivere bene, dico un trucco, si può vivere bene anche in due. E anche in 8, e anche in 9. Ecco, a proposito, questione di cui tu hai molta competenza, no? Delle famiglie numerose. Famiglie numerose, la semplicità, lì forse è ridurre le complessità, è la cosa fondamentale. Semplificarci la vita, visto che siamo in tanti, non, no? Esatto, ma allora, a parte il fatto che tutti e 9 insieme nella stessa casa, proprio per una questione di età, non siamo mai stati. Se non a Natale e le feste comandate, perché ovviamente dopo un po' qualcuno se ne andava e ne nasceva un altro, era un po' questo il passaggio. Però sì, alla fine non ti vergognavi se andavi in giro con i vestiti di tuo fratello, no? Anche perché io vengo da un quartiere popolare e soprattutto negli anni 80 c'era ancora, dagli anni 60 in poi, c'era questo tenersi compagnia, questo aiutarsi anche tra vicini, ok? Mm. Quindi quello che magari, e si facevano i figli a scaglioni, mia mamma, vabbè, ha fatto i figli a scaglioni con tutti quanti, perché 9, siamo praticamente tutte le generazioni, abbiamo coperto, però la vicina di casa che aveva la figlia piccola e magari non usava più la tutina, ok, la do a Mary. Mm. Il fatto di avere i vestiti dei vicini, così come magari noi davamo ai vicini qualcos'altro, a noi non ci pesava, era veramente come una comune. Cioè, non sì, rischiavi sì, mai sì, di certo. Star male. No, ma poi io credo che ormai tanti, per esempio anch'io, i vestiti delle mie figlie ne sono stati, sono arrivati e sono ripartiti, no? Sono arrivati da famiglie, di amici, sono ripartite verso altri parenti, amici, esatto, eccetera, eccetera. È giusto così, certe cose poi si usano davvero mica tantissimo, no? Quindi perché gettarle? Perché non passarle a qualcun altro? In fondo è una rete, è anche bello dire, oh, questa è la mia cugina, no, adesso è esatto, mia. Ma guarda, c'era una vicina di casa che era quella che un pochino più danarosa, cioè nel senso che lei aveva un pochino più di soldi e le due figlie avevano sempre le Barbie, io non me lo scorderò mai questa cosa. E io le Barbie non ce le avevo perché era l'ultimo dei problemi, le Barbie da noi, no? E niente, loro passavano a me le Barbie che non usavano più, ma una volta che le passavano a me arrivavano senza piedi, con i capelli rasta, cioè, certo, già dipinte. L'alternativa era niente, quindi va benissimo la Barbie con i capelli rasta e con le dita dei piedi mangiucchiate, no? Ma sì, ma sì, ma poi lì entra la fantasia a quel punto, la costruzione, non è tanto l'oggetto che hai in mano, è semplicemente uno strumento, esatto, di gioco. Ma in 9 la fantasia la devi avere per riuscire a sopravvivere senza uccidere uno dei fratelli, perché comunque immaginati tutti questi ragazzini per casa che urlano e la mattina mi ricordo che ci si nascondeva le sveglie, perché il bagno era uno e quindi era... Fammi vedere a che ora ha messo la sveglia lui, alle 7, aspetta che la nascondo e la metto io alle 7:10, perché se no dopo occupa il bagno e non arrivo più a scuola, cioè robe così. Vedi, trucchi di sopravvivenza. Sì, ma non avevi tempo di annoiarti, cioè noi non si andava in depressione perché non c'era spazio per la depressione. Beh, lì c'è il punto, non c'è spazio per la depressione perché forse c'era la sopravvivenza, no? Prima, quindi bisognava, sopravvivenza, vabbè, buono, non stiamo parlando, sì, certo, di Siria. C'era anche un po' di chi se ne frega, cioè nel senso, eravamo veramente molto meno attaccati alle cose, non ti bastava un tombino. Lo so che sembro molto a Marcord in questo momento e non è da me perché io sono abbastanza verso il progresso, però a me veramente bastava un tombino per dire ok, abbiamo un gioco da fare, salta il tombino, cioè. Allora, no, è giusto, è vero, è così, assolutamente così. Mary, grazie molte. Allora, noi ci prendiamo il tombino e ci facciamo 4 salti oggi pomeriggio, magari usciamo fuori anche con l'Avezzari, che lì è un po' mogio, è un po' stanco, beh, dopo un sabato sera fuori, e invece lo porta a fare il gioco del tombino. C'è un bel tempo. Ma pare, così dice, speriamo. Senti, c'è uno che ci scrive che ti invidia tantissimo le galline, perché dice che lui ha vita nomade, è felicissimo, non tornerebbe più indietro, ma gli mancano le galline, vedi? No, ma io vivo in una bellissima fattoria, è davvero, le galline, i cani, le tartarughe, i gatti e via dicendo, ed è quello che riesce veramente a portarmi fuori dalla realtà. Non che la mia realtà mi faccia schifo, è bella, però quando hai bisogno di un posto sicuro e poi in caso di lockdown, a me, per me è una figata, ragazzi. Li avrai belli ingrassati questi polli durante il lockdown. Esatto. Mangiavano 3 volte al giorno. Anche esatto, il dolce, brava, gli portavi. Grazie Mary, buona giornata, buon lavoro e allora salutaci le galline. Sarà fatto, grazie mille. La prossima volta chiamatemi di tardo pomeriggio che ho la voce. Sarà fatto. Prima ti facciamo recapitare qualcosa di caldo, un lattino caldo col miele. Grazie mille. Grazie Mary Sarnataro. Adesso abbiamo la viabilità. Si può fare. Può fare. We'll be right back. Si può fare con poco, si può fare con poco, anzi forse in questo caso potremmo dire si può fare con poca spesa. Vi ricordo, per partecipare 800 24 0024 per le telefonate, oppure 349 238 6666 per sms e whatsapp. Ci scrive un ascoltatore: grande saggezza apprezzare quel poco o tanto che si ha, beh insomma quel poco che si ha forse, invece di amareggiarsi e soffrire per quello che non si ha. Sicuramente però uno può avere delle ambizioni, dei desideri da esaudire. Beh, si può trovare il modo di esaudire questi desideri, soprattutto se sono desideri materiali, magari di acquisto di qualche cosa. E c'è una signora professionista in questo. Lei si chiama Serena Guatta, una donna che è balzata agli onori delle cronache già diverso tempo fa per la sua capacità di gestire gli sconti, trovare buoni sconti e utilizzarli. Serena, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Serena, come va la raccolta punti, la raccolta buoni? Benone, benone, tutto perfetto. Lei è diventata famosissima, mi pare così era fine dell'anno del 2019, sì, è venuta, sì, esatto, fuori questa sua abilità. Lei è a Brescia, giusto? Esatto, provincia di Brescia. Provincia di Brescia, quindi è un'area con tanti negozi, tanti, no, market di vario, sì, tipo, sì, dove quindi si... Pubblici. Magari senza fare troppi chilometri si possono trovare le occasioni. Come fa lei a saperlo? Come scopre? Io seguo tutti i giorni le offerte che ci sono a volantino di tutti i supermercati, eventualmente se ci sono delle promozioni, quindi concorsi, e abbino tutte queste possibilità di risparmio in modo da ottimizzarle. Quindi io partecipo ai concorsi, utilizzo i coupon che si stampano da internet, partecipo alle promozioni dei cosiddetti provami gratis o spendi e riprendi, che consistono nell'acquistare dei prodotti e di averli completamente rimborsati o in buoni spesa o addirittura con il bonifico su conto corrente, e quindi io riesco a fare la mia spesa quotidiana avendo queste possibilità di risparmio, e vi assicuro che sono proprio risparmio concreto, perché quindi al mese... si riesce a permettere più di quanto non potrebbe permettersi, diciamo, come o normalmente. Ma lei lavora o questo è allora, diventato un lavoro? Io lavoravo, ma per una serie di altri motivi adesso sono a casa. E quindi dedico tutto il mio tempo al momento a questo studio, chiamiamolo studio. Mi piacerebbe affiancarlo a un lavoro part time, ma al momento va bene così. Il mio compagno ha il suo lavoro e io riesco a supportare il bilancio familiare, diciamo risparmiando dai 500-600 euro al mese di spesa, però... quindi spesa di tutti i giorni. Per quanto riguarda le piccole soddisfazioni che ci togliamo, sicuramente sì, perché comunque tanti viaggi e tanti elettrodomestici, qualche cena fuori magari, esatto, cose così, esatto, cena fuori, quindi siamo riusciti a toglierci tante piccole soddisfazioni. Beh, quindi insomma intanto ci dice una cosa, che tutte queste promozioni esistono veramente, perché tante volte ci viene il dubbio che dire ma sì, però poi dopo io raccolgo, ma non sarà mica vero. No, assolutamente, sono alla portata di tutti. Certo, bisogna dedicarci del tempo, purtroppo lo ammetto, porta via tanto tempo. Beh, ormai avrà uno strumento, cos'ha, un'agenda dove si segna dal giorno X io al tutto giorno sul X. Cellulare. Tutto. Quindi la mattina si illumina e dice: oggi supermercato X c'è questa parte, questa offerta. Sì. Io vivo in simbiosi col mio cellulare. Nel bene e nel male. Beh, questo un po' tutti, però magari non tutti ne risparmiamo alla fine, no? Viviamo col cellulare, ma magari spendiamo di più perché andiamo a comprare col cellulare, invece le va a risparmiare. Vero. Vabbè, comunque è un'attività che insomma lei ci dice ha intrapreso un po' per necessità, che adesso però è diventata così un po' più importante nella sua vita, ma la costringe a far molti chilometri, perché ad esempio, ne parlavo in redazione l'altro giorno, io ho una parente che è molto appassionata, diciamo, di usufruire di sconti e così via, ma il risultato è che fa un sacco di chilometri per andare a prendere quell'offerta o l'altra offerta. Lei sta attenta anche a questo aspetto? Allora, io sì, perché sono molto fortunata, diciamo che mi trovo in un posto che ha tantissimi marchi di supermercati a breve distanza, quindi non faccio poi tutti questi chilometri, mi sposto anche per andare a trovare la mia famiglia, quindi ho tutto, diciamo, a portata di mano. Ci sono delle volte che mi sposto un po' più in là, però diciamo che tra i miei concorsi riesco a recuperare anche dei buoni carburanti, quindi anche il carburante, diciamo che è coperto dalla mia attività, fa tutto parte del gioco, insomma. Ma se lei vincesse 1 milione di euro alla lotteria, continuerebbe? La lotteria, gratta e vince e quant'altro, mi odiano a morte. Quindi non ci spero. Lo vincessi 1 milione di euro, ah, magari però ci ha provato, cioè, dice... lo investirei e andrei comunque avanti a fare questo, perché comunque a me è una cosa che diverte, è una cosa che mi piace, ecco. Non piace a tutti, ho provato un po' a introdurre amici e parenti in questa cosa, ma no, vedo che non tutti sono predisposti. Ci va pazienza, cosa ci vorrà? Sì, pazienza, organizzazione, meticolosità e... Vabbè, per il discorso dei concorsi anche fortuna, però vedo che è limitato il discorso dei concorsi la mia fortuna, quindi usiamola lì. Senta, ma vabbè, poi ci sarà un'attività parallela domestica, perché non è che uno va a comprare, non lo so, 4 kg di insalata che poi va male. Sarà anche l'offerta, no, ma non la compra. Assolutamente, io in base alla spesa di cui ho bisogno studio poi le promozioni, non è che faccio l'inverso, quindi guardo le promozioni e compro cose. Non funziona così, se no il risparmio viene annullato completamente. Quindi la sua è anche un'azione antispreco, vogliamo dire così? Esattamente, diciamo che se io sfrutto per capirci i provami gratis, che permette di prendere dei detersivi gratuitamente, il detersivo io lo accetto perché comunque sia non è deperibile a breve, quindi io ho la mia scorta di detersivi, ammetto che ho un po' di cumulo di detersivi, ma il detersivo ovviamente non andando a male è utile per me, è utile per la mia famiglia, è utile un po' per tutti, quindi il detersivo è accettabile. Per quanto riguarda i beni alimentari, assolutamente no, non voglio sprecare niente. E quindi si può fare, la ringrazio. Serena Guatta, allora in bocca al lupo, buon proseguimento, grazie per i suoi consigli e le sue misure antispreco anche. Ci ritroviamo dopo GR24 e continuiamo a parlare di si può fare con meno, questa volta in ambito di rifiuti. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Si può fare. Si può fare con poco, questo è il tema della nostra puntata, si può fare con poco in una famiglia numerosa, come abbiamo sentito, con piccoli sotterfugi, qualche scherzetto, ma comunque ci se la cava alla fine. Si può fare con poca spesa, con buoni e sconti, abbiamo parlato anche di questo. Si può fare con poco in ambito di spazzatura, cioè se ne può creare meno di spazzatura o si può gestirla meglio con delle modifiche poi non esagerate, ma certo con caparbietà e decisione, senza rinviare sempre al futuro. Abbiamo parlato di questo, si è parlato di questo negli ultimi giorni anche qui a Milano, una manifestazione che si chiama Il Verde e il Blu, verde della sostenibilità, blu del digitale, si sono incontrati per parlare di presente e soprattutto di costruzione del futuro. All'interno di questo festival c'è stata l'assemblea di Assoambiente, che tra l'altro ha confermato il nostro ospite alla presidenza, e lì si è parlato di strategia nazionale dei rifiuti. Il nostro ospite è Chicco Testa, buongiorno e complimenti per questa conferma alla presidenza. Grazie, buongiorno, buongiorno. Allora, si può fare con poco il tema della nostra puntata. Chiaramente non è un ambito quello in cui si può fare con pochi soldi questa trasformazione. Sicuramente gli italiani con poche, come dice, attenzioni domestiche possono cambiare radicalmente la situazione. L'abbiamo visto nei dati di Milano, no? Ad esempio, ultimamente Milano ha fatto dei balzi da gigante nelle classifiche per le raccolte dei rifiuti. Insomma, è una trasformazione possibile. E soprattutto si può fare con meno soldi, perché oggi ne stiamo spendendo troppi perché facciamo le cose sbagliate. Lei ha citato Milano e la Lombardia invece è forse la regione meglio messa rispetto alle classifiche, non solo nazionali ma le classifiche europee. Milano ha un tasso di raccolta differenziata molto alta, ma soprattutto ha un tasso di riciclaggio molto alto, cioè le raccolte differenziate si trasformano poi in nuovi materiali, manda in discarica pochissima roba e usa la termocombustione, quello che viene chiamato volgarmente incenerimento, per una parte residua di rifiuti, producendo energia elettrica e producendo calore grazie al teleriscaldamento, Brescia e altri, e quasi tutti i termocombustori che ci sono in Lombardia. È chiaro che invece, ad esempio, altre città che non hanno questa gestione, diciamo, non dico a chilometro zero, ma perlomeno regionale, spendono un sacco di soldi per il trattamento di questi rifiuti. Magari i cittadini sono anche bravi in una certa misura a differenziare. Sì, esatto, però... esatto, no, a meno scala regionale o interregionale, abbiamo situazioni, citavo ieri, città della Sicilia, Agrigento, no, che portano il risultato della raccolta differenziata, la frazione umida, no, quella che conosciamo tutti, perché a casa ce l'abbiamo tutti, a Bergamo. No, lei pensi solo... Il costo del trasporto, capisci? Cioè, non ha senso, per carità, io non sono per piccoli impianti, ci vogliono degli impianti grandi, importanti, insomma, che abbiano la dimensione industriale per fare bene determinate cose, ma onestamente fare 1500 chilometri, oppure Roma che non vuole la discarica, non vuole l'inceneritore, non riesce a fare degli impianti di compostaggio, eccetera, eccetera, e poi partono da Roma, mi pare sono 170 camion al giorno che fanno 700 chilometri di andare, 700 chilometri di tornare, per portare la spazzatura dei romani in Nord Italia o all'estero. Lei capisce che il costo dell'inquinamento di questo movimento è ben superiore a quello che invece ci sarebbe se ci fossero degli impianti locali. Certo, un impianto moderno, un impianto controllato, perché poi nasce sempre lì, no, il conflitto. Ma a Copenaghen, non c'è bisogno di andare a Copenaghen, mi risulta che basta andare in Alto Adige per vederli buoni. Ma basta andare a Brescia, no? Ma basta andare anche a Napoli, ad Acerra, dove il termocombustore di Acerra è considerato un esempio in tutta Europa. Ma poi ci sono nuove frontiere, perché non bisogna come dire, affezionarsi a questa o a quella tecnologia, no? Esatto, perché anche lì c'è l'innovazione, non è che dobbiamo costruire secondo i criteri di 20 anni fa, ma anzi possibilmente coi criteri di tra 20 anni. Esatto, per esempio importanti aziende italiane stanno studiando la possibilità una possibilità pratica di riutilizzare quella parte della plastica che oggi non si riesce a riciclare per produrre altre materie prime come l'idrogeno o come il metanolo grazie a trasformazioni chimiche delle raffinerie al contrario, se vuole, no? Una volta si partiva dal petrolio, si parte dal petrolio per fare la plastica, ora partiamo dalla plastica per fare altre materie prime. Bisogna però che i cittadini abbiano una mentalità aperta rispetto a queste questioni, perché se invece prevale nel paese un atteggiamento per cui ogni volta che si sente nominare la parola rifiuti, la risposta è no, lontano da casa mia, non lo voglio, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, i rifiuti li produciamo tutti, da qualche parte bisogna metterli, insomma, non è che, come dire, in casa c'è il salotto ma c'è anche il bagno, no? Così in una regione ci deve essere il consumo ma anche il posto dove mettere i residui dei nostri consumi. Cittadini che dall'altra parte mi sembra che sia insomma nel loro diritto avere diciamo trasparenza, no? Su questi impianti, cioè quanto, no, come vengono fatte le cose, quali risultati danno le analisi, vogliamo fare un'analisi incrociata, perché comunque a volte sono successi casi che ovviamente hanno allontanato la fiducia, no? Dei cittadini, però si può. Assolutamente sì, ormai forse se lei va. Se lei va sui siti delle regioni più evolute, più importanti, meglio gestite, non so come definirle, trova tutti i dati relativi all'inquinamento, ai controlli, eccetera, eccetera, che vengono fatti. E poi i cittadini, come dicevamo prima, hanno diritto anche di pagare tariffe normali. E purtroppo la TARI, la famosa TARI, continua ad aumentare, e continua ad aumentare proprio per le carenze impiantistiche che rendono problematico lo smaltimento. Cioè, noi mandiamo rifiuti in Romania, ma le pare normale, insomma. Ci sono paesi fuori dall'Italia che si arricchiscono grazie ai rifiuti italiani, perché prima paghiamo per portarglieli e poi loro li utilizzano invece per fare energia, per fare elettricità, per fare calore o altre forme di recupero. Quindi, sì, sì. Allora ne parliamo tra un attimo. Questa è già un'introduzione anche, immagino, alla questione centrale del libro che presenta oggi, che è l'elogio della crescita felice. Abbiamo la viabilità. Torniamo tra un istante, un attimo solo. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta. Può fare. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino, ma siamo chilometri distanti, un arcipelago di isole separate. Ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Noi siamo giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Chicco Testa, presidente di Assambiente, sempre in collegamento con noi. Senta, ovviamente immancabile arriva il messaggio che dice: ma no, basta inceneritori, basta, ce lo chiede l'Europa non li vuole più, come non vuole le discariche. Io credo che prima cosa ovviamente sia fare la differenziata come va fatta, avere gli impianti per trattare tutti i vari, no, carta, vetro, tutte quelle materie che possiamo recuperare, però ci sarà sempre un residuo. Credo che sia per quello che di cui stiamo parlando. Cosa facciamo dell'ultimo avanzo? No, ma assolutamente sì. Guardi, l'Europa ha degli obiettivi chiari da raggiungere nel 2035. L'Europa dice riciclaggio 65%. Attenzione, riciclaggio, non raccolta differenziata. Perché io posso raccogliere certo, poi se butto tutto insieme di nuovo e poi li butto in discarica e finita la storia, no? Per fare il 65% di riciclaggio noi dovremo portare la raccolta differenziata, diciamo, almeno all'80%, perché anche quando faccio la raccolta differenziata non tutto quello che io raccolgo può essere riciclato. Mi pare, diciamo, un concetto semplice da capire, abbastanza logico, no? Tenga conto che oggi siamo nazionalmente appena sopra il 50%, quindi c'è da camminare molto. Raccolta differenziata all'80%, riciclaggio al 65%. In discarica non voglio mettere più del 10%, dice l'Europa, 65 più 10, 75, dobbiamo trovare una soluzione per quel 25% che rimane, che non è riciclabile, perché non tutto al momento è riciclabile. Poi se arrivano nuove tecnologie, parlavamo prima della plastica oggi non riciclabile, ma che può diventarlo grazie a nuove tecnologie, allora tanto di guadagnato. Non è affatto vero che l'Europa non vuole i termocombustori, basta andare a vedere cosa succede in Germania, in Svezia, in Danimarca, in Francia, eccetera, eccetera. L'Europa dice non esagerate con i termocombustori. E non esagerate neanche nella taglia, immagino, perché se dovete via via ridurre, no, la quantità di cose che ci portate, è inutile costruire. Vabbè, ma noi siamo. Ci manca, però noi siamo a zero, in certe parti siamo a zero. No, siamo a zero. Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna stanno bene, purtroppo dalla Toscana in giù cominciano i problemi e la controprova sta nel fatto che quelli che dicono no, poi sono complici del fatto che le loro regioni mandano in giro migliaia di camion a portare rifiuti, tra l'altro con un paradosso, vede, perché questo sta facendo questa domanda che viene da fuori regione, no? Per esempio parliamo della Lombardia, fa sì che il costo sia aumentato moltissimo perché c'è una fortissima domanda, capisce? Quindi i cittadini, per esempio lombardi, che hanno consentito la realizzazione di certi impianti, oggi si trovano a pagare prezzi alti perché c'è domanda che viene da fuori regione, capisce? Non vorrei che questo prima o poi provocasse una reazione e, non so, Lombardia, Veneto, altri dicessero: sentite, noi i vostri rifiuti non li vogliamo. L'hanno già detto, in certe occasioni l'hanno già detto, lo so, no? Quindi. Lo so, sì. Senta, allora, di tutto questo immagino lei parli in un modo o in un altro, appunto, in questo volume, L'elogio della crescita felice, che si presenta proprio al Festival Verde Blu, no? Quindi ci siamo, sì. Pronto. Oggi pomeriggio alle 3 alla Biblioteca degli Alberi, il parco che è stato creato all'interno della zona che i milanesi conoscono come Gaia Ulenchi, i nuovi grattacieli, ho fatto questo bellissimo parco, no? Sì, e quindi lì ci si trova. Però voglio, vi conoscete già e vi siete recentemente congratulati, sì. C'è già in collegamento con noi Monica Giuliano. Monica Giuliano è sindaco di Vado Ligure, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, perché lei, Chicco Testa, ha inventato questo premio che si chiama premio Pimby, che ricalca un po' il NIMBY ma vuole essere all'incontrario, che è Please in My Backyard, cioè vorrebbe dire il premio a chi fa qualcosa in casa propria per cambiare una situazione negativa, per non lasciarsi morire. Ha premiato comuni, ha premiato aziende, ci sono, no? È molto vario questo premio. Testa, c'è ancora? Sì. Tocca a me? Sì, no, volevo dire, è un premio molto vario, no? Ha varie declinazioni, non è che dice devi essere per forza dell'ambito dei rifiuti, no. No. Premiato anche Gori a Bergamo per un posteggio, insomma. Sì, per un parcheggio, sì. No, è un premio che vuole premiare quelle istituzioni, quegli organismi i quali, andando un po' controcorrente, realizzano delle opere pubbliche, diciamo, no? Che hanno benefici generali sul territorio e lo fanno anche affrontando opposizioni che, se fosse per loro, non bisognerebbe cambiare mai niente. Il caso di Vado Ligure, che può raccontare la sindaca, è uno di questi casi importanti dove si è trasformata una crisi, la chiusura di una vecchia centrale, in una famosa opportunità. La crisi... Sindaco, era proprio la crisi di questo polo che un po' tutti conoscevamo, che ha lasciato a casa qualche migliaio di lavoratori, giusto? Sì, la crisi molto profonda, perché il sistema economico della provincia, ma anche di buona parte della regione Liguria, era un sistema basato sulla filiera del carbone e quindi una serie di attività che partivano dalla logistica della movimentazione di questa materia prima, il porto che è stato, diciamo, implementato sulla base delle necessità di questo impianto, una delle centrali più grandi, ecco, in Italia, A un certo punto un tracollo quasi immediato, con il sequestro della parte della centrale Carbone, ha lasciato a casa più di 5.000 persone, perché non parliamo solo dei diretti, ma di tutti gli indiretti e di tutte le aziende e società che gravitavano anche solo in tema di manutenzione dell'impiantistica, che era un'impiantistica interessante, ecco, ma anche con un sistema di manutenzione profonda. E quindi tutti fermi e quindi siamo rimasti a piedi, ma il problema principale è stato quello, o meglio in piazza, perché proteste, scioperi, ovviamente c'è stato tutto, scioperi e non solo. Il problema era far capire alla comunità che era necessario reindustrializzare, cioè far arrivare nuove industrie, non cambiare il modello, perché c'è stata anche una forza molto profonda di personaggi politici che pensavano di poter creare lì dei parchi, ecco, dei parchi e solo dei parchi, senza parlare più di industria, come se l'industria fosse qualcosa di negativo che dovevamo allontanare da queste comunità. E invece l'azione è stata esattamente l'opposto: far arrivare nuove attività produttive, diversificare il sistema economico, parlare di più di logistica e portualità, perché noi abbiamo il mare che è una grande risorsa, e abbiamo implementato così a mare, ecco, con una scelta che feci qualche anno fa, una piattaforma contenitori molto grande, quindi collegando infrastrutturalmente il mare a terra, quelle aree lì, quindi 300.000 metri quadrati, ormai sono nuovamente tutte rioccupate da un sistema economico che è molto diverso da quello che c'era prima, anche dal punto di vista ambientale sicuramente migliore, ma comunque che fa industria, che fa attività primarie. Quindi l'idea, io ho apprezzato anche l'idea che, perché tante volte dopo queste crisi si pensa facciamo il museo del mare, tipo. Bravissima. Allora, esatto. È un'idea fantastica il museo del mare, ma non ci campano 5.000 persone. Esatto, e poi anche perché sicuramente questa crisi non l'abbiamo completamente superata, perché i numeri non sono più quelli di prima, però avendo diversificato questo sistema e avendo collegato anche con un porto completamente nuovo e moderno, perché l'investimento della piattaforma di APM Terminal, che fino a qualche anno fa era denominata piattaforma Merckx, non vi dico per poterla portare a casa, perché io ho avuto comitati di mezza Italia, tutti concentrati a Vado, perché il dissenso era totale: non vogliamo il porto, non vogliamo i camion, non vogliamo. Quindi il no era praticamente perennemente, costantemente sulla bocca di quasi tutti i politici, perché poi tutti guardano l'interesse, diciamo, elettorale del momento. Quindi se io condivido questo percorso di dissenso, per me è anche, per chi fa politica a volte, ma politica di basso profilo, c'è un ritorno immediato. Dopodiché però il ritorno deve essere, bisogna guardare un po' più avanti. E il fatto che vado, io ci ho perso pure le elezioni nel 2009 sul tema dello sviluppo portuale, ho fatto 5 anni. Però poi è ritornata. Quindi. Poi sono ritornata, il secondo giro ho vinto col 70%, cioè nel senso adesso sono al secondo mandato, ma perciò di mia stato i cittadini, che a volte bisogna fare delle scelte coraggiose, che è al limite dell'estremo delle forze, perché credetemi che ho fatto dei consigli comunali dove ero praticamente scortata, perché non vi dico di cosa, anche sì. Perché addirittura il premio vedo che è stato contestato in queste ultime ore, dicendo sono in merito dei sindacati se l'area di crisi complessa, sì. Ma no, per carità, sarà è merito dei sindacati, non lo so, però il premio, che tra l'altro ho visto chiamare Pimpi, attenzione testa, perché qui è un problema, il premio Pimpi. Il premio Pimpi è stato assegnato a Vado Ligure, ma non è che vuol dire che i sindacati o i lavoratori ne sono esclusi. Il sindaco rappresenta un po' tutti, credo. Certo. Ma no, rappresenta tutti. Io mi ricordo oltretutto che quando ci fu questa chiusura, appunto, centrale e altre realtà, perché non solo la centrale, ma il terminal rinfuse, cioè tutta una serie di realtà che gravitavano intorno a questo sistema, io avevo, quando proposi di rilanciare quel polo dal punto di vista industriale e rilanciare il porto dal punto di vista, ho avuto l'opposizione di molti lavoratori che erano impiegati in altre fabbriche, perché c'era, diciamo, un po' la convinzione che io tanto il posto di lavoro ce l'ho in un'industria vicina, ad esempio noi abbiamo delle industrie che riguardano, insomma, il tema della petrochimica e dei lubrificanti per macchine, ecco, si occupano di questa roba qua, e gente impiegata in quelle aziende era contraria a quello sviluppo, cioè pur lavorando in settori industriali, però non condividevano il fatto che Vado dovesse nuovamente rilanciare altri spazi, come se l'effetto veramente NIMBY è un effetto molto anche personale, cioè le persone se stanno bene, diciamo, a casa loro, poco mi importa se il mio vicino muore di fame, e questa logica è una logica devastante, che per cambiarla ho fatto una fatica boia, Ma poi quello che hanno compreso è che quando invece si rilancia uno sviluppo industriale arrivano delle risorse anche per il comune. Cioè io ho costruito una serie di convenzioni urbanistiche, convenzioni sulle spese correnti, dove praticamente finanzio di tutto, cioè lo sviluppo del fronte. Ma noi abbiamo impiegato 10 milioni di euro, che per un comune di 8.600 abitanti è quasi impossibile in altre realtà nazionali. Noi abbiamo fatto accordi di diversa natura con i nuovi operatori, con autorità di sistema portuale, permettendo una crescita sia delle attività produttive, ma anche di quelli che sono i servizi alla persona. Abbiamo dei sistemi, diciamo, anche di accompagnamento di situazioni di crisi sociale. Quindi se il sistema va avanti insieme, ambiente, industria, cioè è possibile. Cioè è possibile, si può fare, io la fermo su questa cosa. Esatto. È possibile, cioè si può fare. Come siamo noi. Si deve. Grazie Monica Giuliano, sindaca di Vado Ligure. Grazie a Chicco Testa e ancora complimenti per questa rielezione e per il libro. Abbiamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Si può fare. Si può fare. I've viewed in my presence, my hand on my forehead, citing the liners of mad merchant seamen. Spices of China. Signora Paola da Roma, la stavamo cercando per parlare di scambio case, perché anche quello è un si può fare con poco, una vacanza magari bella scambiando case, una buona proposta. Ci ha telefonato per parlarne, ma adesso il telefono è staccato, se ci sente lo riattacchi, che così parliamo anche di questo. Nel frattempo ci spostiamo a Verona o a Venezia o in Croazia, chissà dove troviamo il nostro prossimo ospite, che è Massimo Marchiori. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Sono a Verona, quindi in bottega, no? In bottega. Stari Ribar, Corretto. No, Stari Ribar, che in croato, giusto, significa vecchio pescatore, oppure quel pescatore della domenica, a quanto ho capito. Cioè dipende un po' dal contesto, da come si dice, no? È più un pescatore con esperienza, un pescatore con saggezza, viene utilizzato come complimento quasi, ok? Diventa un termine importante da un certo punto di vista. Dunque è un termine che lei ha scelto, no? Questa per la sua bottega e le opere che lei compone a partire da rifiuti che raccoglie sulle spiagge. Quindi è un pescatore saggio, no? La leggenda del santo bevitore, qui facciamo il santo pescatore, che trasforma questi rifiuti in opere d'arte. È un'attività che lei ha intrapreso dopo una carriera completamente diversa. Un po' all'inizio abbiamo iniziato proprio parlando di una cabarettista che è partita da un lavoro in un'agenzia a viaggi per poi appunto fare l'inviata delle Iene, il cabaret e così via. Lei ha iniziato una carriera come è arrivato in una casa automobilistica, giusto? Poi ha avuto una malattia, questo le ha fatto cambiare vita e ha ripreso l'attività dei suoi genitori, in una certa misura della sua famiglia artistica, ecco. È vero, è corretto, sì. Lavoravo nel mondo dell'automotive e poi una brutta malattia ha avuto la capacità di risvegliarmi il coraggio di vivere inseguendo i miei sogni fondamentalmente. E così dopo quel momento è nato Massimo Artista e Scultore. Che con poco fa le cose, perché poi alla fine è lo sforzo di andarle a cercare, ma la materia prima è gratuita, purtroppo ce n'è tanta. Certo, assolutamente, tenga presente che poi io ho cominciato utilizzando il cartone in forma anticonvenzionale, cioè lo utilizzavo un po' come uno scultore modella il legno, la pietra, io modellavo il cartone dandogli delle forme diverse, oggetti di uso comune in grandezza naturale, ho fatto di tutto, delle moto, delle biciclette, addirittura un aereo della prima guerra mondiale in grandezza naturale. E da lì sono partito con il concetto artistico legato comunque anche a un concetto di ecosostenibilità, cioè utilizzando materiali completamente riciclati e riciclabili. il passaggio successivo è stato quello di utilizzare anche questi materiali che trovavo lungo le spiagge, plastica in modo particolare, fondendoli al cartone per dargli questa forma di pesce, perché quelli di Tariribar sono dei pesci, utilizzando appunto questi materiali plastici che trovo lungo le coste di Silba, quest'isola della Croazia, e a Venezia, lungo i muraglioni di Caroman, appunto dove trovo parecchio. E poi ci sarà dello scarto, materiale. Immagino, che lei smaltisce correttamente e finalmente va dove deve andare. Parte, si tenga presente che sì e no, utilizzo il 5% di quello che raccolgo, che può diventare interessante per una scultura. Il resto invece lo la spazzatura vera e propria. Esattamente, ma lo porto all'interno di quello che è il circuito del riciclo e della raccolta differenziata. Quindi mi trovo nella condizione che raccolgo questi sacchi pieni di plastica e non solo, che poi porto, ripeto, la maggior parte, il 95%, lo ridistribuisco in quello che è il contesto del riciclo tradizionale, e solo un 5% lo utilizzo per fare le mie sculture. Che però sono molto accattivanti, io le ho viste, allora c'è tanto colore, per cui c'è sì. la scultura che parte appunto da un rifiuto, da qualcosa di abbandonato, di grigio, di... con poco, nel senso che, cioè, chiaro, c'è il suo talento, ma c'è anche il poco che è il colore, diciamo, cambia completamente. Esatto, e questo è il bello sì, anche delle cose, che con poco possono cambiare. Sì, anche perché poi la fusione di questi materiali, che hanno evidentemente materie diverse, colori diversi, io li rendo omogenei dandogli queste basi di colori assolutamente 100% all'acqua, giusto per mantenere anche un concetto di ecosostenibilità, e gli do questa riesco a fondere insieme tutti questi materiali grazie al colore, okay? Quindi veramente con poco riesce a fare tanto. Poi è chiaro che c'è molta creatività, c'è molto del mio saper fare, però ovviamente la materia prima è quella che alla fine viene abbandonata, no? Quindi diventa ancora più interessante questo concetto. Quindi la forma d'arte diventa anche comunicazione per sensibilizzare lo spettatore e poi chi diventa l'acquirente dello stesso oggetto. Tanti artisti ultimamente si stanno dedicando a questo, cioè evidentemente nello scarto c'è qualcosa che ispira, diciamo, la sua trasformazione. Sì, decisamente. C'è da dire, apro una piccola parentesi, è chiaro che a me non basta vivere della mia arte, della mia creatività, cerco anche di divulgare un pensiero e un principio, nel senso che oltre a raccogliere la plastica, oltre a raccontare questa storia, cerco di coinvolgere lo spettatore in modo attivo e propongo a chi vuole e a chi se la sente di portarmi la plastica direttamente in negozio, direttamente in bottega o attraverso quei negozi che già vendono i miei prodotti, diventano dei centri di raccolta di quella plastica che magari l'utente può trovare andando a fare una passeggiata lungo un fiume, lungo il lago o lungo le rive del mare. Beh, è molto bello questo, quindi insomma se qualcuno così fa queste, magari sta partecipando a Puliamo il Mondo, che è stata fatta in questi giorni con Lega Ambiente. Bravissima. Qualcuno partecipa a Puliamo il Mondo, vede qualche cosa che non è un fazzolettino chiaramente, ma è qualcosa che, da cui si può ricavare un'opera, esatto. può fargliela pervenire, diciamo così. Dopo ovviamente lo ribadisco e lo ricordo a tutti che comunque quando si è in spiaggia la raccolta indifferenziata di quello che si trova per terra è fondamentale per rendere comunque quello spazio leggermente più visibile, no? E più apprezzabile. Quindi tant'è vero che anche una quota parte, una minima parte dei miei ricavati li dono in beneficenza all'Onlus World Lies, che si occupa proprio di divulgare. Quella di Maria Sole Bianco, un ospite di questa trasmissione più volte. Sì. Corretto. Proprio per aiutare in minima parte, però ci provo, a finanziare tutti quei progetti che servono appunto per promuovere la tutela dell'ambiente. Quindi, Dica. No, volevo ringraziarla e salutarla perché sa come funziona il clock di Radio 24, sì, no? Andiamo verso la viabilità, ma grazie. Verso. Comunque, allora, volevo ricordare Massimo Marchiori a Verona, Tariribar, e appunto se trovate qualcosa da cui lui possa ricavare magari un'opera d'arte, magari prima una foto, diciamo, no Massimo? E poi dopo vi mettete in contatto qualcosa. Comunque è sempre piacevole, nel senso che le persone poi quando vengono a trovarmi è un momento anche di scambio di racconti, di informazioni e anche perché no, di divulgazione, no? Rispetto al problema. Quindi venite pure senza problemi, io vi aspetto. Grazie, okay? Grazie molte. Grazie a voi, grazie buona a voi, giornata. Buona giornata. E diamo il buongiorno a Paola che ha sentito il mio appello. Buongiorno signora da Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io avevo letto questo messaggio, poi non riuscivamo più a trovarla e allora ho detto, però magari sta sentendo la radio. Allora, ci voleva parlare di come si può fare un po' di vacanza anche scambiando case, no? Lei lo fa? Io sì, io lo faccio da quasi 30 anni, tantissimo tempo. Quindi è una sostenitrice. Assolutamente, diciamo che in realtà non riesco ad immaginare un altro metodo per fare le vacanze, perché si va in un'altra casa. Intanto andare in un'altra casa, in un'altra nazione, significa scoprire davvero come vivono gli altri. Io mi sono limitata all'Europa, non sono stata in altri continenti con questo sistema, però ovviamente anche l'Austria o la Francia hanno modi diversi di organizzare la casa. Certo, le posate sono sempre di solito nel primo cassetto della cucina. Il bagno è sempre in fondo a destra. Ecco, già sul bagno cominciamo ad avere molte differenze, perché per esempio i francesi hanno senza andare bagni poi diversi, certo. Bagni diversi hanno. Il bagno invece subito a destra entrando in casa, messo il gabinetto con un lavandino se c'è, minuscolo. La sala da bagno invece è da un'altra parte, spesso proprio da un'altra parte, quindi questo complica per noi italiani. Ma a parte questo, le comodità sono tantissime e devo dire che parte il risparmio, perché infatti qua la domanda subito era: quanto risparmia in questo modo? Beh, il prezzo dell'albergo, albergo come cosa, o dell'Airbnb, però, ma comunque sicuramente. Esatto. Devo dire che una delle cose principali che ho apprezzato quando i miei figli erano piccoli è stata quella di avergli insegnato il rispetto. Perché giocate con i giochi, ma sono dei bambini della casa. E quindi c'era un rispetto per le cose che direi è continuato poi per tutta la vita, perché si impara a utilizzare le cose degli altri ma rispettandole. E anche chi scambia casa, per cui gli adulti, intendo dire noi genitori, se impara un po' più a capire, certo. A capire, ma anche, oddio, rotto un bicchiere. Mentre se uno prende una casa in affitto, certo, ci sta attento lo stesso, però se rompe un bicchiere dice pazienza. Certo, anche l'ho già pagato con l'affitto, alla fin fine si mette nel conto. Le case in affitto sono un po' tristarelle, io quando le prendevo c'erano 4 posate, 4 bicchieri, 4 piatti, mentre lì invece c'è tutto. Ovvio, e la fornitura è tipicamente di un magazzino svedese. Paola, la devo salutare, mi fa tristezza anche a me quando sono tutte uguali con 4 posate e 4 coltelli. Che io suggerisco caldamente. Bene. C'è anche qualcuno che scrive il garden sharing, non so cosa voglia dire, però vabbè, l'approfondiremo. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Trasformare la passione per l'usato, gli abiti usati, in una professione. Beh, di questo è senz'altro maestra Ilaria Romualdi, creatrice di Lolita Vintage. Buongiorno. Buongiorno Laura, come va? Bene, lì a Parigi com'è? Perché guarda, quando si parla male, di moda non potevamo non collegarci con Parigi, no? Perché sì, guarda, oggi non male, c'è anche il sole, ma Dai, tutto bene, tutto bene. Tutto bene, chiaramente ieri sappiamo tutti è stata una giornata un po' di allerta per tutta la città, per quello che è successo, e speriamo appunto in un'alba e in una giornata più serena per la capitale francese. Speriamo. Noi parliamo di si può fare con poco, però parliamo di abiti, no? Si può fare con poco, e negli ultimi anni è venuta un po' questa moda, c'è chi l'ha sempre fatto, chi invece l'ha scoperta ultimamente, di andare a frugare e cercare abiti usati, però non è la stessa cosa quello che fai tu, no? Con Lolita Vintage, cosa fai di diverso dal cercare l'abito usato? Allora, diciamo che io mi sono sempre vestita con abiti vintage, prima erano gli abiti di mia mamma e di mia nonna, e poi cercavo veramente nei vari vintage shop, ma anche nei mercatini, i capi più particolari per sentirmi un po' diversa dagli altri. E quindi ho deciso di fare una professione e effettivamente vado personalmente nei negozi vintage, nei negozi dell'usato, nei negozi caritativi, per cercare dei capi particolari e proporre una selezione unica. Quindi tu fai la selezione e lo stile, diciamo, cioè hai una cosa in testa e cerchi quella. Esatto, diciamo, io so quello che mi piace, conosco un po' le tendenze, la sfilata, le sfilate, e cerco appunto di proporre una selezione alle ragazze che si stanno avvicinando al vintage, o semplicemente alle ragazze che non hanno voglia di frugare tra 10.000 abiti usati che magari non sono neanche puliti, o semplicemente non hanno voglia. Io propongo già una selezione che abbia un certo stile, così le ragazze trovano direttamente quello che le piace. È molto, cioè molto interessante. Io ho visto, tu sei sugli anni 70 come periodo. Sì, diciamo che gli anni 70 è quello che è un po' il periodo che preferisco. Qualcosina degli anni 90, un po' minima, ma soprattutto anni 70, con cardigan un po', diciamo, lavorati a mano, maniche a sbuffo, jeans a vita alta. E se vogliamo vederlo, lo troviamo su Instagram, giusto? Allora, io la tua vetrina è quella. La pagina Instagram, sì, 2 anni fa, Lolita Vintage, è tutto su Instagram. Per il momento non ho sito né nulla, perché amo molto questo contatto immediato che possiamo trovare su Instagram. Le ragazze mi scrivono, mi dicono, ecco, mi interessa questo capo, mi interessa, non so, un paio di jeans, Levi's 501. Parliamo e l'acquisto si fa direttamente su Instagram. È una vetrina veramente. E poi tu devi spedire, fai tutto tu. Faccio tutto io. Quindi non si può trasformarsi, esatto, è un lavoro, si può trasformarsi in tutto, no? Perché devi andare a selezionare, devi fare le foto. Guarda, sono le foto, la spedizione. Esatto. Immagino che le clienti poi abbiano bisogno di informazioni, quindi ti chiederanno taglie, cose, misure, via dicendo, no? Allora, io cerco di, insomma, scrivere tutto nelle descrizioni di Instagram, però ovviamente ogni cliente ha le sue curiosità e quindi deve essere sempre pronta a rispondere a tutti, avere pazienza, però anche questo è bello, il contatto con la cliente. Beh sì, certo, hai delle affezionate clienti e via via il parco aumenta, immagino che anche il tuo lavoro aumenti, perché quello è di conseguenza, ovviamente. Anche tu sei un po' stile anni 70, da quello che vedo. Sì, dalle... un pochino, sì. Piace proprio anche, guarda, a te personalmente. Guarda, io su Lolita Vintage vendo solo quello che porterei io. Quindi davvero, solitamente sono io al 100%, non compro nulla da rivendere che non potrei portare. E quindi direi che un segreto che possiamo aggiungere a questa puntata per avere successo nel nostro si può fare con poco è quello di avere la stessa passione che cerchiamo di poi dare agli altri o vendere agli altri nel tuo caso. Cioè, se tu non ne fossi convinta, probabilmente non convinceresti nessuno. Assolutamente, assolutamente, questo è proprio un segreto chiave. Bene. Direi che il segreto è chiave sicuramente. Ti voglio chiedere una cosa, perché tu sei molto giovane, giusto? Quanti anni hai? Si può dire? 27. 27. Hai mai fatto, prima abbiamo parlato di queste scambio casa per viaggiare risparmiando, cose di questo tipo. Tu sei di quella generazione che ha fatto il cambio casa magari con qualcuno per conoscere il mondo? Cambio casa non l'ho mai fatto, però ho fatto di tutto, Airbnb, couchsurfing. Ah, il couchsurfing l'hai fatto. Quindi il couchsurfing, questo lo spieghiamo, è il divano. Quindi sei ospite a casa di qualcuno. Non sempre, diciamo sì, sei ospite. L'ho fatto in Russia, pensa, quando vivevo in Russia. Non è sempre il divano, a volte è una stanza, però l'idea è sì che insomma c'è sempre uno scambio, diciamo, più che altro sociale, tipo io dormo da te, però appunto parliamo, non so, nel mio caso dovevo tipo fare dei corsi di inglese a questo ragazzo che mi ospitava. E poi l'idea è anche quando l'altra persona viene nel tuo paese, te puoi ospitarlo se vuoi, ma non sei obbligata, però sì, diciamo, è tutto gratuito, è più su uno scambio sociale che economico. Certo, il valore però è di conoscere poi alla fine, di aver potuto, esatto, avere un'esperienza che altrimenti non ti saresti potuto permettere con quello, con i soldi che hai in tasca. Esattamente. Allora, è arrivata anche la spiegazione di che cos'è il garden sharing: affitto il giardino a chi viaggia con la tenda e il camper, la roulotte, eccetera eccetera, in bicicletta. Non abbiamo tempo, caro ascoltatore, di chiamarti, anche se ci hai detto che a voce ci avresti spiegato meglio, però almeno abbiamo detto di che cosa si tratta. Ci stiamo avviando con Ilaria Romaldi alla conclusione di questa puntata. Allora Ilaria, intanto in bocca al lupo, ti seguiremo su Instagram Lolita Vintage e buona ricerca, buona caccia nei mercatini. Quali sono i mercatini migliori d'Europa? A Parigi ovviamente. A Parigi ovviamente, va bene. Ma non posso svelarli. No, però la città ce la potevi dire, ce l'hai detta. Quindi lasciamo perdere Madrid, il rastro, lasciamo perdere Parigi. Ma guarda, per me è Parigi. Ok, tutta la vita. Grazie Ilaria, allora buon proseguimento. Grazie mille. Allora io voglio ringraziare non solo Ilaria ovviamente in collegamento con noi, ma tutti coloro che ci hanno scritto oggi, e sono davvero tanti coloro che ci hanno telefonato, e ringrazio in redazione come sempre Edoardo Lavezzari, Michele Michelazzo, autore di questo programma. In regia oggi c'è Andrea Roccabella, grazie, benvenuto, ci hai fatto compagnia anche tu. Ci ritroviamo domani mattina alle 8:30 come sempre con una nuova puntata di Si può fare. Domani in particolare possiamo parlare di Si può fare la pace. Se avete i vostri suggerimenti da darci già su Facebook, altrimenti appuntamento a domani mattina. Da Laura Bettini, buon ascolto. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.